tutto scorre, tutto passa, nella mente scorre tutto, idee, convinzioni, mode, mal di testa, dubbi, svarimenti, scorre tutto. È così difficile non diventare un personaggio se non avvelico, pensa perché 1470 anni e più. Tutto scorre, niente basta, i soldi, una vita, la benzina, la mia mente ardini, il mio cuore una foresta, vivo lì appesa ad una liana, con le solitudini da disboscare, le frenesi e cacciate dal mio urlo, con le mie paure velenose amare, gioventù. Tutto dorme, tutto sembra indifferente alla follia del tempo, ma perché salta, preme, invecchia, impazza e non l'ho mai capito. Oggi, domani, poi è passato, futuro.